giorni difficili, quelli in cui tocchi il fondo. Avevo perso tutto quanto e mi appariva buio il mondo. Come facevo ad amare ancora? Come potevo gioire? Dovevo per forza riuscire ad alzarmi, ma basta, basta soffrire. Mi afferrò una sola mano amica, che poeti più banali la farebbero di un angelo. Ma io che poeta non lo sono, dico semplicemente che la mano era la tua. E tu sei la mia giornata, tu sei ogni mio sorriso. Sei la foglia appena nata, la risposta a ogni quesito. Sei la strada principale, ma anche quella secondaria. Sei uno sguardo che fa male, sei la mia bocca d'aria. E non servono parole, non servono fra noi. Quello che io devo dirti già lo sai. Ti voglio bene, ti voglio bene. E mi basta solo un gesto per capirti, per capire. Forse ci vogliamo bene, perché sappiamo ben soffrire. Perché tu sei forte ma sei debole. Perché tu sei una guerriera che ha superato dure prove. Ma noi che siamo fragili, se stiamo insieme diventiamo indistruttibili. E tu sei la doccia fresca quando picchia a volte il sole. Sei la primula sbocciata quando ancora è inverno fuori. Sei la mano sulla spalla quando sono triste e stanco. Ed il braccio che mi culla, sei il calore che io sento. E non servono parole, non serviranno mai. Quello che io ho da dirti tu lo sai. Ti voglio bene. E mi basta solo un gesto per capirti, per capire. Forse ci vogliamo bene, perché sappiamo ben soffrire. E tu sei l'attesa, sei la gioia, sei la mia ragione. Sei una dolce melodia, una splendida canzone. Sei la luce che si spegne quando è ora di dormire. E sei il sole che entra in camera quando mi dovrò svegliare. Sei la rabbia che mi assale quando so che non stai bene. Quando ti vorrei aiutare ma non posso fare niente. Sei la luna, sei le stelle, tu sei tutto il firmamento. Tu sei il braccio che mi culla, sei il calore che io sento. E non servono parole perché ci capiamo ormai. Perché quello che io sento lo so già che tu lo sai. Perché tu mi leggi dentro come un libro che hai già letto. Ma io ho voglia di dirtelo lo stesso. Ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene.